Capitolo 30. Il carattere di Catherine per natura non era sedentario, né le sue abitudini erano mai state molto industriose, ma qualsiasi potessero essere stati fino ad allora i suoi difetti da quel lato, la madre non poté fare a meno di accorgersi che ora si erano enormemente accresciuti. Non riusciva a rimanere seduta né a dedicarsi a un'occupazione per 10 minuti di seguito, continuava a fare il giro del giardino e del frutteto come se fosse dotata solo della volontà di movimento. E sembrava riuscisse perfino a camminare per casa piuttosto che starsene ferma nel salottino per un qualsiasi periodo di tempo. La perdita del suo buon umore era un cambiamento ancora più grave. Se il suo vagare e la sua pigrizia potevano renderla la caricatura di se stessa, il suo silenzio e la sua tristezza la rendevano l'esatto contrario di quello che era stata prima. Per 2 giorni la signora Morland lasciò correre senza nemmeno un'allusione, ma quando una terza notte di riposo non le ebbe ridonato la sua spensieratezza, né le ebbe fatto fare nessun progresso in qualsiasi attività utile, né ebbe aumentato la sua inclinazione per il cucito, la madre non poté trattenersi più a lungo dal riprenderla gentilmente con: «Mia cara Catherine, temo proprio che tu stia diventando una gran signora. Non so quando saranno pronte le cravatte del povero Richard, se non ha altra amica che te. I tuoi pensieri corrono troppo verso Bath, ma c'è un tempo e un luogo per tutto, un tempo per i balli e il teatro e un tempo per il lavoro. Hai avuto un lungo periodo di divertimenti e ora devi cercare di renderti utile». Catherine prese immediatamente il lavoro dicendo in tono avvilito che i suoi pensieri non correvano a Bath. Non molto, perlomeno. «E allora? Ti stai crucciando per il generale Tilney? Il che è sciocco da parte tua, perché è 10-1 che non lo rivedrai più. Non dovresti mai crucciarti per delle sciocchezze». Dopo un breve silenzio: «Mi auguro, mia cara Catherine, che tu non stia prendendo in antipatia casa tua perché non è lussuosa come Northanger. Questo vorrebbe dire davvero mutare in un male la tua visita. Dovunque tu sia, dovresti essere sempre soddisfatta, ma specialmente a casa, perché è qui che devi passare la maggior parte del tuo tempo. Non mi è piaciuto a colazione sentirti parlare tanto del pane francese di Northanger. Oh, sta certa che non mi importa del pane. Qualunque cosa mangi è lo stesso». C'è un saggio molto interessante in un libro di sopra che tratta proprio di questo argomento, di giovanette che non hanno più amato la propria casa a causa di conoscenze altolocate, in The Mirror, penso. Te lo cercherò un giorno o l'altro perché sono certa che leggerlo ti farà bene. Catherine non disse altro e, con uno sforzo per comportarsi bene, si applicò al proprio lavoro, ma dopo pochi minuti cadde, senza nemmeno accorgersene, nel languore e nell'indolenza, agitandosi sulla sedia per limitazione dovuta alla noia, molto più spesso di quanto muovesse l'ago. La signora Morland osservò il corso di questa ricaduta e, vedendo nell'aria assente e insoddisfatta della figlia la prova certa di quello spirito scontento al quale aveva ora incominciato ad attribuire la sua mancanza di allegria, in fretta lasciò la stanza per andare a prendere il libro in questione, ansiosa di non perdere tempo nell'attaccare un male così terribile. Ci volle un bel po' prima che riuscisse a trovare quello che cercava, e poiché le si presentarono altre faccende domestiche a trattenerla, era trascorso un quarto d'ora prima che tornasse da basso con il volume oggetto di tante speranze. Le sue attività al piano di sopra le avevano impedito di sentire qualsiasi rumore se non quello che faceva lei stessa, e quindi non seppe che da pochi minuti era arrivato un visitatore, finché, entrando nella stanza, la prima cosa che vide fu un giovanotto che non aveva mai visto prima. Con uno sguardo che esprimeva il massimo rispetto, egli immediatamente si alzò e, dopo essere stato presentato dalla figlia con aria vergognosa come il signor Henry Tilney, con l'imbarazzo di chi è veramente sensibile, incominciò a scusarsi per la sua comparsa, riconoscendo che dopo quanto era avvenuto aveva ben poco diritto di aspettarsi di essere il benvenuto a Fullerton, e affermando che la sua impazienza di essere certo che la signorina Morland aveva raggiunto la propria casa sana e salva era la causa della sua intrusione. Egli non si rivolgeva a un giudice prevenuto né a un cuore colmo di risentimento. Ben lontana dal condannare lui o la sorella per il comportamento indegno del padre, la signora Morland era sempre stata ben disposta verso entrambi e subito, contenta del suo arrivo, lo ricevette con sincere dichiarazioni di autentica benevolenza, ringraziandolo per l'attenzione che aveva avuto per la figlia, assicurandogli che gli amici dei suoi figli erano sempre i benvenuti e invitandolo a non parlare più del passato. Egli Fu ben felice di obbedire a questa richiesta, poiché, benché il suo cuore fosse molto sollevato per questa inaspettata gentilezza, in quel momento non gli era possibile dire qualcosa a quel proposito. Ritornando in silenzio al proprio posto, quindi, egli se ne stette per alcuni minuti a rispondere con la massima cortesia a tutti i commenti della signora Morland circa il tempo e le strade. Catherine, nel frattempo, l'ansiosa, agitata, felice, eccitata Catherine non disse una parola, ma le sue guance ardenti e lo sguardo acceso inculcarono nella madre la fiducia che questa gentile visita avrebbe tranquillizzato il suo animo almeno per un po', e quindi fu ben contenta di mettere da parte il primo volume di The Mirror per un'altra occasione. Ansiosa di avere l'assistenza del signor Morland, sia per incoraggiare che per trovare argomenti di conversazione per il suo ospite, il cui imbarazzo a causa del padre di lei compativa sinceramente, la signora Morland aveva mandato subito uno dei bambini a chiamare il marito. Ma il signor Morland non era in casa e così, ritrovandosi senza nessun aiuto, dopo un quarto d'ora lei non ebbe più niente da dire. Dopo un paio di minuti di silenzio ininterrotto, Henry, rivolgendosi per la prima volta a Catherine da quando la madre era entrata, le chiese con improvvisa sollecitudine se i signori Allen si trovavano a Fullerton. E dopo aver ricavato dalle frasi confuse della risposta di lei quel significato che un'unica breve sillaba sarebbe bastata a comunicare, immediatamente espresse l'intenzione di andare a porgere loro i propri rispetti e, arrossendo un poco, le chiese se avrebbe avuto la bontà di mostrargli la strada. Potete vedere la casa da questa finestra, signore? Fu l'informazione che venne da parte di Sara, che provocò soltanto un lieve inchino di assenso da parte dell'uomo e un cenno del capo inteso a zittirla da parte della madre. Infatti la signora Morland, pensando che probabilmente un motivo secondario del suo desiderio di far visita ai loro degni vicini potesse essere che egli aveva qualche spiegazione da dare circa il comportamento del padre, che doveva essere più facile per lui comunicare solo a Catherine, non voleva assolutamente impedirle di accompagnarlo. Incominciarono la loro passeggiata e la signora Morland, nel favorirla, non aveva frainteso del tutto l'intento di lui e gli doveva in effetti offrire delle spiegazioni che riguardavano il padre, ma il suo intento principale era spiegarsi lui stesso, e prima che raggiungessero le terre del signor Allen l'aveva fatto così bene che Catherine non pensava che quelle parole potessero mai venirle ripetute troppo spesso. Le fu assicurato che godeva dell'affetto di lui. E le fu richiesto in cambio quel cuore che forse entrambi sapevano ugualmente bene, che era già tutto per lui. Infatti, benché vedesse bene, si rallegrasse di tutti i meriti del carattere di lei e ne amasse sinceramente la compagnia. E devo confessare che il suo affetto era nato da niente più che la gratitudine, o in altre parole, che la persuasione che lei aveva un debole per lui era stato il solo motivo che l'aveva fatto pensare seriamente a lei. Riconosco che questa è una circostanza nuova in un romanzo e che è terribilmente degradante per la dignità di un'eroina, ma se è altrettanto nuova nella vita di tutti i giorni, allora avrò almeno tutto per me il merito di un'immaginazione sfrenata. Una visita brevissima alla signora Allen, durante la quale Harry parlò a caso, senza senso o coerenza, e Catherine, rapita nella contemplazione della propria inesprimibile felicità, a malapena dischiuse le labbra, li lasciò infine ai trasporti di un altro tête-à-tête. E prima che questo dovesse purtroppo concludersi, lei poté giudicare fino a che punto egli avesse l'approvazione dell'autorità paterna riguardo alla sua attuale domanda. Di ritorno da Woodston 2 giorni prima, il suo impaziente genitore gli era andato incontro nei pressi dell'abbazia, lo aveva informato in fretta e in termini adirati della partenza della signorina Morland e gli aveva ordinato di non pensare più a lei. Questo era il permesso in base al quale egli ora le aveva offerto la sua mano. Catherine, spaventata, in preda a tutti i terrori dell'attesa, mentre ascoltava questo racconto, non poté fare a meno di rallegrarsi della gentile prudenza con cui Harry le aveva risparmiato la necessità di un doveroso rifiuto, impegnando la sua parola prima di menzionare l'argomento. E quando lui continuò, entrando nei particolari e spiegandole la condotta del padre, lei si rassicurò sino a provare perfino una gioia trionfante. Il generale non aveva niente di cui accusarla, niente da esibire a suo carico, se non il fatto che lei era l'oggetto, involontario e inconsapevole, di un inganno che l'orgoglio di lui non poteva perdonare, e che un orgoglio più degno si sarebbe vergognato di confessare. Lei era colpevole soltanto di essere meno ricca di quanto lui aveva creduto che fosse. Convinto erroneamente che potesse vantare beni presenti e futuri, egli aveva cercato di conoscerla a Bath, ne aveva sollecitato la compagnia Northanger e l'aveva scelta come sua nuora. Scoperto il suo errore, cacciarla di casa gli era sembrata la prova migliore, sebbene inadeguata rispetto ai suoi sentimenti, del proprio risentimento verso di lei e del proprio disprezzo per la sua famiglia. John Thorpe l'aveva tratto in inganno per primo, il fratello di Isabel. Il generale, vedendo una sera a teatro il figlio che rivolgeva alla signorina Morland una considerevole attenzione, si era informato casualmente presso Thorpe se egli sapesse di lei qualcosa più del suo nome. Thorpe, felicissimo di essere in buoni rapporti con un uomo dell'importanza del generale Tilney, si era dimostrato allegramente e orgogliosamente comunicativo e, dato che in quel periodo non solo ci si aspettava da un giorno all'altro che Morland si fidanzasse con Isabella, ma era anche decisissimo lui stesso a sposare Catherine, la sua vanità l'aveva indotto a dipingere la famiglia ancora più ricca di quanto la sua avidità gli avesse fatto credere che fosse. Con chiunque gli fosse in rapporto o sperava d'entrarvi, la sua stessa importanza esigeva sempre che grande importanza fosse quella dell'altro, e man mano che la sua amicizia con un qualsiasi conoscente aumentava, altrettanto regolarmente aumentavano i beni dell'altro. Le prospettive del suo amico Morland, dunque, fin dall'inizio sopravvalutate, dal momento in cui era stato presentato a Isabella, erano andate gradualmente aumentando e semplicemente raddoppiandole ancora. Per la grandiosità del momento, raddoppiando anche quello che aveva deciso di credere fosse l'ammontare dei beni futuri del signor Morland, triplicando i suoi beni personali, attribuendogli una zia ricca ed eliminando metà dei figli, egli aveva potuto presentare al generale l'intera famiglia nella luce più rispettabile. Per Catherine, comunque oggetto in particolare della curiosità del generale e delle proprie mire, egli aveva ancora in serbo qualcosa di più, e le 10 o 15.000 sterline che il padre le avrebbe dato sarebbero state un bel di più aggiunte alla proprietà del signor Allen. La sua amicizia con loro l'aveva convinto seriamente che le erano destinati in futuro dei buoni lasciti, e quindi parlare di lei come dell'ormai quasi riconosciuta erede di Fullerton era una logica conseguenza. Il generale si era basato su tali informazioni e non gli era mai venuto in mente di dubitare della loro autorevolezza. L'interesse di Thorpe per la famiglia, dimostrato dal fatto che la sorella stava per imparentarsi con uno dei suoi membri e dalle sue mire su di un'altra, circostanze di cui si vantava con quasi ugual franchezza, sembrava una garanzia sufficiente della sua sincerità. E a questo si aggiungevano i fatti indiscutibili che gli Allen erano ricchi e senza figli, che la signorina Morland era affidata loro e, non appena l'amicizia con loro gli aveva consentito di giudicare che la trattavano con familiarità e gentilezza. La sua decisione fu presa rapidamente. Aveva già visto nell'atteggiamento del figlio della simpatia per la signorina Morland e, grato al signor Thorpe per quello che gli aveva comunicato, decise quasi sull'istante di non risparmiare nessuno sforzo per affievolire il tanto ostentato interesse dell'altro e per distruggere le sue speranze più care. Catherine non avrebbe potuto allora essere più ignara di tutto ciò di quanto lo erano i suoi stessi figli. Harry ed Eleanor, non vedendo nella situazione di lei niente che potesse attrarre una considerazione particolare da parte del padre, avevano osservato con stupore la subitaneità, la durata e l'estensione delle sue attenzioni, e benché più tardi, da alcune allusioni che avevano accompagnato un ordine quasi esplicito dato al figlio perché facesse tutto quello che poteva per attrarla, Harry si fosse convinto che il padre credeva si trattasse di una parentela vantaggiosa, fino alla recente spiegazione a Northanger, essi non avevano avuto la minima idea dei calcoli errati che lo avevano sollecitato. Che erano errati, il generale l'aveva saputo proprio dalla persona che glieli aveva suggeriti, dallo stesso Thorpe, che per caso aveva incontrato di nuovo in città, e che sotto l'influenza di sentimenti esattamente opposti, irritato dal rifiuto di Catherine e ancora di più dal fallimento di un tentativo molto recente di portare a termine una riconciliazione tra Morland e Isabella, convinto che erano divisi per sempre e rifiutando un'amicizia che non poteva essere più utile, si era affrettato a contraddire tutto quello che aveva detto prima sui Morland. E aveva ammesso di essersi sbagliato completamente nell'opinione che aveva avuto dei loro beni e della loro reputazione. Tratto in errore dalle smargiassate dell'amico, aveva creduto che il padre possedesse beni e una buona reputazione, mentre le transazioni delle ultime 2 o 3 settimane avevano dimostrato che non aveva né gli uni né l'altra. Infatti, dopo essersi fatto avanti premurosamente al momento dei primi contatti per un matrimonio tra le due famiglie con le proposte più liberali, egli, obbligato a venire al sodo dalla cortezza di chi parlava, era stato costretto ad ammettere che non poteva offrire ai giovani neppure un sostentamento decente. Erano in effetti una famiglia indigente e anche numerosa, più di quanto si potesse immaginare, per niente rispettata nel proprio vicinato, come egli aveva avuto ultimamente particolare opportunità di scoprire. Miravano a uno stile di vita che le loro condizioni finanziarie non potevano garantire, cercavano di salire attraverso parentele danarose, razza di gente insolente, spaccone, intrigante, bla bla bla. Il generale, terrorizzato, aveva pronunciato il nome degli Allen con uno sguardo inquisitivo. E anche a proposito degli Allen, Thorpe si era accorto di avere sbagliato. Gli Allen avevano vissuto vicino a loro molto a lungo ed egli conosceva ora il giovanotto a cui sarebbero passate le proprietà Fullerton. Al generale non serviva di più. Adirato con tutti, tranne che con se stesso, naturalmente era partito il giorno seguente per l'abbazia, dove si sono viste le sue imprese. Lascio all'acume della mia lettrice decidere quanto di tutto questo fosse possibile a Harry comunicare in quel momento a Catherine, quanto potesse aver saputo dal padre, in quali punti potessero aiutarlo le proprie congetture e quale parte rimanesse ancora e venisse poi raccontata in una lettera di James. Ho unito per la comodità dei miei lettori e lettrici quello che loro devono dividere per la mia. Catherine, comunque, seppe abbastanza per capire che, sospettando il generale Tilney di aver assassinato o rinchiuso la moglie, non aveva certo fatto un gran torto al suo carattere né esagerato la sua crudeltà. Harry, che doveva raccontare queste cose del padre, era in questo da compatire, almeno quanto lo era stato dovendole ammettere per la prima volta con se stesso. Arrossiva per i piani meschini che era obbligato a esporre. La loro conversazione a Northanger aveva avuto il tono più ostile possibile. L'indignazione di Harry, quando aveva sentito come era stata trattata Catherine, aveva compreso le idee del padre, aveva ricevuto l'ordine di accettarle, era stata aperta e audace. Il generale, abituato in ogni occasione a dettar legge in famiglia, impreparato davanti a una riluttanza che non restava solo un sentimento, a un desiderio contrastante che osava esprimersi a parole, aveva mal tollerato l'opposizione del figlio, per quanto ferma la rendessero la conferma della logica e i dettami della coscienza. Ma in questo caso la sua ira, benché dovesse addolorarlo, non poteva intimidire Harry, confortato nel suo intento dalla convinzione di essere nel giusto. Egli si sentiva legato alla signorina Morland, sia dall'onore che dall'affetto, e poiché credeva che quel cuore che era stato indotto a conquistare fosse suo, nessuna indegna ritrattazione di un tacito consenso, nessun ordine contraddittorio dettato da un'ira priva di giustificazioni potevano scuotere la sua fedeltà o influenzare le decisioni che quest'ultima gli suggeriva. Aveva rifiutato fermamente di accompagnare il padre nello Herefordshire. Un impegno creato quasi sul momento per favorire il congedo di Catherine, e altrettanto fermamente aveva dichiarato la sua intenzione di offrirle la propria mano. Il generale era furioso per la rabbia e si erano separati in profondo disaccordo. Harry, con l'animo in preda a un'agitazione che aveva richiesto molte ore di solitudine per placarsi, era tornato quasi immediatamente a Woodston e il pomeriggio del giorno seguente era partito per Fullerton. Capitolo 31. La sorpresa dei signori Morland nel sentire il signor Tilney che chiedeva il loro consenso per sposare la figlia fu, per qualche minuto, considerevole. Infatti, non era mai passato loro per la testa di sospettare che vi fosse dell'affetto da una delle due parti, ma, dato che dopo tutto niente poteva essere più naturale che amare Catherine, cominciarono presto a considerare la cosa soltanto con la felice emozione dell'orgoglio soddisfatto. E per quanto li riguardava, non ebbero neppure un'obiezione da avanzare. I suoi modi piacevoli, il suo buon senso erano qualità che lo rendevano di per sé ben accetto, e dato che non avevano mai sentito parlar male di lui, non era da loro immaginare che ci fosse qualcosa di male da dire. Poiché la buona volontà prendeva il posto dell'esperienza, il suo carattere non aveva bisogno di testimonianze. Catherine purtroppo sarà certamente una giovane padrona di casa molto sbadata, fu il pronostico della madre, ma si consolò presto pensando che non c'è niente come la pratica. Non c'era che un ostacolo, in breve, da menzionare, ma finché quell'unico ostacolo non fosse stato eliminato, era impossibile approvare apertamente il fidanzamento. Erano di carattere mite, ma i loro principi erano solidi e fin tanto che il padre di lui si opponeva così decisamente a quell'unione, loro non potevano permettersi di incoraggiarla. Che il generale dovesse farsi avanti a sollecitare il matrimonio o anche che dovesse approvarlo di tutto cuore, non erano così ricercati da farne una condizione essenziale di cui vantarsi, ma bisognava che concedesse la formalità civile di un consenso. E ottenuto quello, e i loro cuori li facevano confidare che non avrebbe potuto negarlo a lungo, immediatamente sarebbe seguita la loro approvazione data di cuore. Tutto quello che desideravano era il suo consenso. Non avevano nessuna intenzione, né si sentivano in diritto di pretendere il suo denaro. Il figlio, in caso di matrimonio, poteva contare su di una fortuna più che considerevole. La sua rendita attuale era tale da permettergli indipendenza e una vita agiata da ogni punto di vista finanziario. Quella era un'unione al di là delle pretese della loro figlia. I giovani non poterono sorprendersi di questa decisione. Ne erano addolorati, la deploravano, ma non potevano risentirsene e si separarono, cercando di sperare che un tale cambiamento nel generale, che tutti e due credevano quasi impossibile, potesse avere luogo rapidamente, per unirli di nuovo nella pienezza di un affetto riconosciuto. Harry ritornò a quella che era ora la sua sola casa, a sorvegliare le sue giovani piante, a estendere le migliorie per amore di lei, con cui aspettava ansiosamente di condividerle. E Catherine rimase a piangere a Fullerton. Non vogliamo indagare se i tormenti della lontananza fossero alleviati da una corrispondenza clandestina. I signori Morland non lo fecero mai, erano stati troppo buoni per pretendere qualsiasi promessa e ogni volta che Catherine riceveva una lettera, cosa che in quel periodo accadeva piuttosto spesso, loro guardavano sempre da un'altra parte. L'ansia che in questa fase del loro amore deve essere destinata a Harry e Catherine, temo non possa estendersi al cuore delle mie lettrici, che vedranno dalla concentrazione della narrazione nelle pagine davanti a loro che ci stiamo rapidamente avvicinando insieme alla perfetta felicità. L'unico dubbio può essere il mezzo grazie al quale il loro prossimo matrimonio si effettuerà. Quale circostanza è probabile possa influire su un carattere come quello del generale? La circostanza che principalmente giovò fu il matrimonio della figlia con un uomo ricco e importante, che ebbe luogo nel corso dell'estate, un'ascesa di rango che gli provocò un attacco di buon umore da cui non si riprese fino a dopo che Eleanor ebbe ottenuto il suo perdono per Harry e il suo permesso affinché facesse pure lo sciocco se lo desiderava. Il matrimonio di Eleanor Tilney, il suo allontanamento da tutti i mali di una casa quale Northanger era diventata dopo il bando di Harry per una casa scelta da lei con l'uomo scelto da lei, è un avvenimento che mi aspetto provochi la soddisfazione generale di tutti quelli e di tutte quelle che la conoscono. La mia gioia in questa occasione è molto sincera. Non conosco nessuno che abbia più diritto per i suoi meriti senza pretese o che sia meglio preparata per la sua abitudine alla sofferenza a ricevere e a gioire della felicità. La sua simpatia per questo signore non aveva origini recenti e lui era stato trattenuto a lungo dal porle la sua domanda soltanto dall'inferiorità della sua condizione sociale. L'ascesa inaspettata a un titolo e ai beni relativi aveva eliminato tutte le sue difficoltà. Il generale non aveva mai amato tanto la figlia nelle ore in cui gli aveva fatto compagnia. Gli era stata utile, lo aveva sopportato pazientemente, come quando la chiamò per la prima volta Vostra Signoria. Il marito era veramente degno di lei, indipendentemente dalla sua nobiltà, dalla sua ricchezza e dal suo affetto per lei, era precisamente il giovanotto più affascinante del mondo. È inutile ogni ulteriore definizione dei suoi meriti. Il giovanotto più affascinante del mondo si presenta immediatamente all'immaginazione di tutte noi. Riguardo a costui, devo solo aggiungere, poiché so che le regole dello scrivere proibiscono che si introduca un personaggio non collegato alla trama principale, che era proprio il signore il cui servitore negligentemente aveva lasciato quella collezione di conti della lavanderia a causa dei quali la mia eroina si era trovata coinvolta in una delle più paurose avventure. L'influenza del visconte e della viscontessa in favore del fratello fu rafforzata dall'esatta comprensione della situazione finanziaria del signor Morland, che si erano qualificati a fornirgli. Per non appena il generale permise che lo informassero. Seppe che le prime vanterie di Thorpe sulla ricchezza della famiglia lo avevano ingannato, quanto il suo successivo malevolo rovescio da lui attribuito alla famiglia stessa, che in nessun senso della parola erano indigenti o poveri, e che Catherine avrebbe avuto 3.000 sterline. Questo era un miglioramento così essenziale rispetto alle sue ultime aspettative che contribuì enormemente al declino del suo orgoglio. E certo, non furono prive d'effetto le informazioni private che egli ottenne dopo alcune difficoltà riguardo alla proprietà di Fullerton, che essendo interamente a disposizione del suo attuale proprietario era di conseguenza aperta a ogni avida speculazione. In base alla forza di questi argomenti, il generale, subito dopo il matrimonio di Eleanor, permise al figlio di tornare a Northanger e di cui ne fece il portatore del suo consenso, espresso con la massima cortesia in una pagina piena di vuote dichiarazioni per il signor Morland. Presto seguì l'evento che questo autorizzava. Harry e Catherine si sposarono, le campane suonarono e tutti sorrisero, e dato che questo accadde un anno dopo il giorno del loro primo incontro, non mi sembra che dopo tutti i terribili ritardi dovuti alle crudeltà del generale, essi ne fossero così profondamente feriti. Dare inizio alla perfetta felicità all'età rispettiva di 26 e 18 anni significa cavarsela benissimo e, professandomi inoltre convinta che l'ingiusta interferenza del generale, ben lungi dal danneggiare realmente la loro felicità, l'ha forse piuttosto favorita, facendo migliorare la loro conoscenza reciproca e rafforzando il loro amore, lascio stabilire a chi di dovere se quest'opera tende a raccomandare la tirannia dei padri o a ricompensare la disobbedienza dei figli. Fine.